98-77 New Orleans. We got a copy on you. Hey, Mr. 98-77, 30 miles east of Bourbon Street, New Orleans. We got a copy. Come on. B-R-U-C-E. No doubt. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10. Ora CQ canale 10. Attention frequency 27055. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Chiamando poco fa, manco per le scatole, nessuno rispondeva. Infatti non ascolto anche me. C'è una propagazione arrivata a bomba. Non si capisce nulla. Si sente qualche altra frequenza andando. Ehi. Mi schisce a vedere. Stavo ascoltando. Arrivava una bomba stasera. Adesso se ne è scesa la propagazione. Poco, si sente poco. E dove stava ascoltando Natali? Sui 40 anni? Ehi. Cappa, io non lo posso fare, non ce li ho. E lo sto ascoltando con un dipolo per i 20 metri. Devo fargli la carica per farlo andare in 40, capito? E che mi mancano i pezzi di un pezzo di tubo da 40 mi serve per fare due cariche, così lo faccio andare in 40 metri. Io non ne ho. Io vabbè, 40 metri con la manto voglio ascoltare con altri 40 metri, siano i vostri, va bene. Ehi vabbè, ma non è mai come il dipolo. Col dipolo è di lusso. Quanto è alto il palo dell'antenna tua? Il mio è 8 metri, però ne ho salito 5, dai, sarà 5 metri. Un 6 metri voleva, ma 5 metri già va bene, tanto il terrazzo già è, sembra un tirante, l'avevo invertita, lo fai, per i 40 proprio, e va bene. E prima devo avere un ricevitore che ci arrivi con le frequenze, perché non ne ho. Lo so. Per di poco è una cazzata a farlo. Uno o due ne ho fatte. Adesso lo sto facendo ed è basso in questo dipolo. È dentro il vicolo proprio. Ed è per i 20 metri. KK. Vabbè. Tu lo puoi fare perché adesso ti stai prendendo la patente di Pugante e ti servono. E da qua ne posso fare ben poco attività. Perlomeno in quelle frequenze lì, perché qua a posto non ce n'è per mettere antenne, se no in campagna c'ho tutto, se attacco in campagna c'ho tutte le frequenze. Vabbè, in campagna sì. Non basta che tu non mi vuoi andare anch'io. No, è perché cazzo devo stare lì a bisticciare, per poco siamo venuti alle mani con una persona, figurati. Cercate di andare d'accordo, va bene, quello è un po' burbero, dai. Ma io poi sono fumantino, è meglio starsi tranquilli, che non mi posso adirare, capito? Vabbè, già verranno tempi migliori, magari me li piglio un'altra di gare. Infatti. La mia va affittata e così almeno con quei soldi mi compro qualche apparecchio come si deve. Affittata? E allora, così almeno me ne sono liberato, vaffanguarda. E loro sono d'accordo? E loro non siano d'accordo. Io dalla cosa mia faccio quello che voglio. Vabbè, certo. Quindi l'hai dovuta tutta svuotare? Se la sta aggiustando, me la sta facendo nuova praticamente. Cavagano, vabbè, ti servono anche qui su. E io obbligo. Vabbè. E io con i soldi dell'affitto di quella lì me ne avrei preso un altro, un affitto, e me ne sarei andato un'altra parte a abitare, in qualche casa più grande. Non lo so, mi può darsi che lo faccio. Vabbè, per il momento lasciamo le cose come stanno. Tanto mi ho preso l'antenna per la macchina, se voglio fare attività lo faccio dalla macchina e non c'è problema. Ma solo Natale che si sposi la macchina, vabbè, c'è fa parcheggio, cosa fai? No, adesso mi faccio l'abbonamento sotto il mercato e la metto lì. E infatti, tanto, se non c'è altro modo, se la metti con l'utilità di Billy la multa, e Kiwi non vi scardi, deve fare un bel strato. Me ne hanno rubato l'antenna VHF che avevo fissa nella macchina, mi hanno tagliato l'attacco, quindi manco lo stilo posso mettere. Hai capito? Fanno dispetti da queste parti. Adesso farò l'abbonamento là, me la metto là, almeno c'è la guardia lì. E appunto, almeno è sotto controllo. Infatti. E quanto si paga mensilmente lì? 60 euro, me le gioco, non me ne sbatte nulla. E vabbè, allora Natale già si può fare, dai. Te le giochi 60 euro al mese, ma almeno per la salute, cavolo, perché non devi fare un po' di strada da lì, capito? E quello è, allora. Perché se non trovi il parcheggio qua ce la devi mettere lontano e a tornarne a piedi per me non è tanto salutare, diciamo. E se no che c'è macchina direbbe a non trattarla, scusa, se c'è la macchina la devi anche usare, no? E infatti almeno posso uscire di più. Ma ne sono accorto ieri che ce l'avevo dove ferma il tram, proprio sotto qua. Beh, mi hanno rubato l'antenna. Dimmi tu, più che dispetto non è, hanno spaccato il pezzo dove si mette lo stilo. Ma roba fresca qui. E allora, stracciatura hanno fatto. Sono bastardi. Infatti lì è invivibile Natalino. Anche per la tua salute devi stare sempre incazzato, invece ti prendi l'appartamento, paghi l'affitto e almeno te ne sai come ci deve. E infatti. E non stai in mezzo a quella marmaglia che c'è lì. E certo che qua è invivibile qua. tra delinquenti, spacciatori, puttane, di tutto c'è. Ma infatti non è un posto dove dovete stare voi. Un casino, magari trovandola anche di vicino, perché magari Concetta può andare lì dalle amiche sue e cose, però sempre non a Sassariviccio, un po' lontani dalle tipo via Sorso, lì va bene. Lo so, vediamo un po'. Vabbè, comunque ci stanno già abitando quelli o no? No, se la stanno aggiustando, me la soffrono di nuova. Cavagava, è meglio così, così te la tornano come si deve. E te credo, la stanno sta modificando. A dicembre dovrebbero entrare ad abitare. Ma l'affitto te lo stanno pagando da adesso? No, se me la stanno aggiustando anche l'affitto mi devono pagare. Me lo pagano da quando entrano. Ho capito. Vabbè, l'interessante è che te la facciano bene. E da cui vai a casa nuova. E infatti. E con Angelo più visto ti si. E ogni tanto già si fa vedere. Angelo è più alla mano, vero, dell'altro. Come? Angelo è più alla mano dell'altro, vero? No, l'altro è uno stronzo integrale qua. Ma c'è pensato così. Chi sui lisci si umilia. Vabbè. Preferisce fare il viaggio da Archivi a Porto d'Orra quando si poteva prendere la casella a Porto d'Orra. Dato che ce l'ha, che gliel'ho data io a casa, se no lui non avrebbe avuto. Ma infatti quella te la dovevi tenere tu, perché ci abitavi tu, se voleva si abitava una minore. E infatti, no, è minori, no, è 100 decimetri quadri. Quella che affittato. E allora, che piccola, non è piccola per niente. E vabbè, quella più piccola, l'altra è più grande. No, è uguale, là si può dire. A me mi ha dato l'impressione che fosse più grande, magari mi sbaglio io. È più completa, c'è il camino, il carro, è bello. Ehi, già lo so, dove abitava mamma. Quella è più completa. E adesso ci sta lui così, o Angelo ci sta? No, Angelo sta su, al piano di sopra sta. No, perché c'è un periodo che era sceso giù o no? No, sempre su è stata la casa. Ha abitato dove... Nei primi tempi ha abitato dove la stanno aggiustando. Poi se ne è salito su. Ho capito. E andava, vabbè. Gli anni passano, tu sempre vicino. Lo so. Quando mi hanno messo con l'T50 ha portato cantoni, cemento, di tutto sopra il portabagagli. Ha visto il mio suocero, la macchina, si è buttato le mani in capo, l'ha riconosciuto. Quando stavate facendo le case? Di tutto, tre puttava. Con la macchina aveva 20.000 km quando mi l'ha data, era nuova come motore. Cazzo, una volta mi sei girata, ma non quella, no. Ce l'avevo uguale io, perché me l'aveva regalata la mia ex suocera, quella macchina lì. Cazzo, va a rendere via Grazia Leda, perché prima si poteva scendere, no? Cazzo, non mi sei girato. Ne ho visto una su internet di 850 preparata con le ruote larghe, i parafanghi larghi e cose, e c'aveva il motore del Kawasaki Ninja. Camminava che era una, c'era scritto vola in terra e qualche volta può darsi anche in cielo. Ma erano pericolose quelle macchine, c'avevano il motore dietro, davanti erano leggere, si mi sei girata a me. E infatti ci facevano una colata di cemento, visto che c'era quel rientro, c'era il piano, poi c'era un rientro e gli facevano una colata di cemento lì. Perché davanti era pericolosa, che era troppo leggera, era. Ui. Se a me fare in via Grazia Leda mi sei girata, come ho frenato mi sei girata. No, a me mai. E la via camminava, faceva 120. E allora con le macchine 120 era un bel mi, 120, 130 faceva. E anche la mia camminava. Però Marasucci era rizzira. Mi sei girata, disocchi tu, ma gira in via Marghinutti, dimmi tu. Poi dopo un po' di tempo che me l'ha fatta, mio suocero mi si era bruciata la guarnizione della testata a furia di stare fermo perché non la usava mai, c'era seccata. E me l'ha fatta ruzzendo, mi ha detto questa macchina è un orologio. Ma dove l'ha portata tuo suocero? Ho detto da Rusa, io già lo credo allora, per quello che è l'orologio. Poi il difetto era che scaldavano perché non raffreddavano bene, c'avevano il motore dietro. E se li mettevi l'acqua scaldavano, ma io li mettevo liquido, sempre liquido li ho messo. E la mia non scaldava nulla, sono andato anche al muro io con quella lì, non ha scaldato, cioè non mi ha dato problemi là. Prima o poi dopo scaldava, te lo sto dicendo perché noi ci avevamo anche il pulmino 350. Dopo 28.000 km non ne servivano più, scaldavano. Ecco il liquido, come stai dicendo tu, non l'acqua, liquido. È puro gas casiani, Marasucci. E se non stavi attento partiva la guarnizione della testata. E a me mi era partita dopo un po' di tempo, ma mi ha detto, Rossello mi ha detto che è perché la ferma si è seccata. No, è che era difetto della macchina, lascio che era proprio il difetto di quella macchina. Se ne abbiamo avuto 3 o 4 di quei pulmini, a 28.000 km spaccati scaldavano. E magari il pulmino più pesante, capito? Col motore 850 è più pesante e magari scalda anche per quello, ma la macchina, io quella che ho avuto non scaldava nulla, boh, poi non lo so, c'avevo 20.000 km che hanno mirato a mezzuzza. Che vuoi che ti dica? Col pulmino già me l'ho vista brutta nella discesa per scendere in campagna mia. Cazzo, non mi sono mancati i freni col pulmino. Zoghicidu nella sul Turino, Zoghicidu. Cazzo, ho fatto in tempo a girare e ci sono uscito e me l'ho portata senza freni fino a Sassari dal meccanico a aggiustarla. Cazzo, e col freno a mano, piano piano, nello scesa. Si è ributtata dal meccanico, mi sono mancati proprio i freni. Cazzo. Schiaccio il pedale e è andato a vuoto, cazzo. È successo anche a me, avevo fatto i freni pochi giorni prima, stavo andando a pescare, vado a frenare lì a cavalcavia, cazzo, la macchina si è fatta addubberare e praticamente il meccanico ha detto che sicuramente qualche granello di polvere e coso voleva fatto lo spurgo, ma l'ha fatto e qui andava a me. Sì, a me lo stesso mi ha cambiato il coso, la pompa di freni, proprio, perché era pericoloso, cazzo il fulmino, era Bogumaduro, cazzo, e cioè, nella discesa proprio per entrare nel viottolo mio, lì, in quella di San Giumaggio vado da Magnini. Oh yeah. Ci scende dentro la campagna qua. Nell'altra campagna per poco ci scendo, se non riuscivo a girare nell'altro viottolo, perché non ce l'ho fatta a girare in quello di campagna mia. Cazzo, infatti a scendere nella Pui, senza freni, cazzo. Lì e poi lì, se incroci una macchina ti devi fermare, è un casino. Infatti. E nello stesso senza freni, la campagna fino al meccanico. Con le macchine diciamo che erano freni, camminavano e cose, duravano, ma avevano cose meccaniche che magari erano difettose. Sì, infatti. Me la sono vista brutta. C'avevo anche gente dentro la macchina, non ero da solo. Yes. Allora, ti ha giocato a girare. Ma me l'ha fatto nella discesa di Monte Rosi, la strada vecchia per andare a Sentino, dove c'è la discarica di Monte Rosi. Sono andato a buttarci il cartone, stavo scendendo dalla discesa, mi sono mancati i freni e questo furgone andava a colpirmi alla fine, giù su un bacione di Ghessa. Ho preso, sterzato e mi sono fermato lì. Per fortuna, poco prima dello stradone stava passando un altro treno, mi sarebbero abbinato. Sì, mamma mia, che ha messo pulmino, guarda, e se no la volta che l'avevo rubato a babbo il pulmino e sono andato in prefettura a ritirarmi la patente, perché lui non lo sapeva, me l'avevo presa in privato. Aspetta un attimo, e ti stavo dicendo che sono andato in prefettura a ritirarmi la patente, no? Ho ritirato la patente e stavo scendendo in via Leumberto lì, e agando uno spunto a babbo che stava andando al meccanico e mi ha messo la macchina di scavolo. Scendi giù, va. Tu mi vuoi far arrestare, cazzo? Ma ti saluti da Chiago. Perché io stavo scendendo col pulmino. Scaldo la questa qua. Ehi. Cavolo, io ce l'ho salendo e scendendo, e Santonella mi ha dato un po' di magnesia, me la devo comprare. Ehi, vabbè. Capito, mi pone la macchina di traverso Abu, che era con la macchina, con la vettura lui. E se, perché ti devo far arrestare, ha detto. Sì, patenti non hai, come ti fatti? Tu mi ne pure, lo pulmino, da voi gatta, si si fermano, sono mia, la vedi che ce l'ho la patente? La patente c'hai, se va più di 18 anni. E allora da là lì è finita la macchia che mi mandava a puttare la roba. Mi ha voluto, ecco. Da lì ti ha trattato, no? Vai a ringare in faccia a tutti i rotti, va. Già lo credo. Ecco, è finita la macchia, mi ha messo al lavoro in corso. Vabbè, ma la buccia a vacca non andare. La patente dai biglietti, la gente sta con zio. Aveva detto, no? E da lì è finita la macchina, mi mandava con Gianni. Ma c'è anche la compagna. Ma cosa ne so io? Oh, con c'è? Salutamela. Ma basta salutamela. Ah. Oh, yeah. Io me lo ricordo bene, ho qua il record 2000, ragazzi. Tutta la fila andando a Sentino, quasi me l'avevo avuto io in prima fila. Chiso è da bui, va via una macchina vecchia della Renault, quando me la puoi della verso in via Lomberto, la R, come cazzo, R11 mi pare che ci... una macchina verde aveva, adesso non mi ricordo che tipo era, però era una Renault, che ce l'aveva precisa quella di Dio Enzo. Ma se sa record era tutta smarmittata, tutta senza musica, non è anche così questa macchina, andava piano piano, tutta la fila dietro, cazzo. Oh, io ho detto, no, che non si scemo più con il furgone, dovevo andare a cadere a scaricare la roba, un casino, cazzo, lì a fila longa. E così era mezz'ora, la mattessi cosa, andando a Brattamona, sulla Budibuti c'era la fila lunga 3 km, c'era mio socio, l'ho sorpassato, meno male era in moto, ho sorpassato e me la è in prima fila. Se ti tira qui la vuol dire la babbo in testa e non ti butti gli altri via di lì a che cosa se ne parava la macchina, ti puniva lavoro in corso. Oh, io poco andava in piano prima. Oh, vabbè, gente che non ha mai avuto incidenti, però intanto va, è sempre andata bene. E oltre a quello lui guidando e facendo i conti, dimmi tu. Oh, yeah. Diciamo che andiamo sola così. Cazzo, mi sto facendo un pari vero. Eppure è così. Cazzo, guidando e facendo i conti, si basia i ragionamenti suoi, no? E si basia i conti a mente, o stai in grata la calcolatrice, e se no mamma, un computer mi sa era. E lo meno a me, una volta ti ho detto, vai, pareggiavi i vassoi e lungo su Maragusta, che non avevo, siamo andati insieme, c'è Durrato e ti ho detto, mi devi da, e ti ho detto, e perché quando tornavo da portare la merce, mi devi da tot, a canto durato i conti erano gli affatti. Già si fuggisi. Oh, e cosa fuggisi? Era un computer umano quella. Cazzo, non lo usava calcolatrice a mente, mi si vadiano i riconti. Cazzo, sabia, tanto per lì ci portavo un tot di merce e lei sapeva che doveva entrargli tanto. Ma venuto arrivano, pure fuggì. E cos'era mio padre? Mio padre lo stesso, si faceva conti sul dittante a me. Ma quella era una cosa patologica, roba di soldi, cazzo, di conti grossi. Oh signore, così erano, calcolatrice, telefonino, o se mi ha già comprato proprio il telefonino, mi ha giusto comprare io. Trattare io mi ho comprato dalla bicicletta in full, ma non perché non ne avessi mio padre, perché è che io mi dovevo abituare a conservarmi i soldi e a comprarmi quello che mi serviva. No, la papà porta dice è facile, devi conservarteli, lavorarteli d'estate, andavo, lavoravo, mi ho comprato moto, mi ho comprato macchine, sempre, tutto da solo. È la stessa cosa io, la legge era quella, era, no, non me ne compravo, non è come te tu andi e compareggi la roba a tuo figlio, ridi, non te ne comparavani, se non te ne zappavi, non venire lì nuda. Infatti, chi non è buono a educare siamo noi, non loro, perché loro già erano stati educati come si deve. La di meno, tieni. Capito. Scusa Natali che vado a prendere il cane, che mi sta dando mattana, la sta correndo a tornare a tavolo, ci fa presto. È tremendo, lo devo portare giù, lo ci vuole a curia attorno al tavolo, lì appresso e lui gira attorno al tavolo e si diverte, capito? Gioca. No, il mio lo so da fa, ma quando non si vuole far mettere la pettorina, la è una chiganzina, chissà. Lui è lo stesso, capito? Lui è lo stesso. Ci mette ancora attorno al tavolo, tu giri attorno, se non sei in due a bloccarlo dall'altra parte, stai tre ore. Sì, e se no, curti, la stessa cosa è. Quando lo deve portare non si vuole far mettere la pettorina a lui. Cos'è perché? Perché è abituato che tu lo mandi giù magari e allora dice cazzo lo faccio prima non lo posso fare dopo. E anche quello deve, io lo mando giù da solo, lo mando. E lì lo premio perché lo guardo dalla finestra a vedere se la fa la pipì, no? Quando lui fa la pipì e sale da solo, fa tutto da solo. Quando sale gli do un pezzo di wurster. E se fa la popò come fa? Allora, no, allora tocca scendere a raccoglierla. No, ma non la fa mai. Non è qua perché l'ho portato io. Perché quando la fa quando lo porta, no? Ho capito. Diciamo che l'unica cosa che c'è che ci possono essere cani, gli altri cani che le morsicano questo e quell'altro, se no per il resto va bene. Ma qui non ce n'è cani che lo possono morsicare, capito? Perché lui mi va qui giù, proprio fuori dal portone e si mette nel muro lì, infatti Concetta ogni tanto scende e gli mette l'acqua e butta l'acqua. Ho capito. Sì, vabbè. No, in realtà se lo porta Elena adesso perché io non ce la faccio. Non ce la faccio proprio una taglia camion. Infatti, se uno non ve la vaglio, non ve la vaglio. Anche Concetta lo porta lì, prima lo portavo io lo portavo la mattina e lei lo portava la sera, adesso lo sta portando lì, perché a me come ha fatto tanto per dire una cinquantina di metri mi viene quel dolore lì, cosa fa? Io prima lo portavo mattina e sera, mi faceva anche piacere perché conoscevo un po' di gente vicino a casa e cose, farmi quattro chiacchiere, vabbè dai. C'erano ragazzi, conoscevo un po' di gente, signore grandi, quindi ti facevi le chiacchiere così, parlavi del più del meno, passavo il tempo, loro giocavano. No, e qua io non mi vengo con nessuno, non mi vengo mai. Buttavo i cani e ce lo riportavo a casa, fatto. Ma lì si avvicinano, qua vicino a casa ce n'è un bel di gente che c'è il cane, ma non pochi, non un besso. Ah, i noghi non si avvicina a nessuno. Usi cani, rugani, non è che si avvicinano. No, io faccio conoscenza con tutti, sono socievole, mi piace parlare, ridere, scherzare. Ho conosciuto un po' di ragazzi, Sì, lo so, ma qui non fa. O non si fermano perché è una zona un po' così, Probabilmente non c'è fiducia l'uno con l'altro, perché sanno che è una zona un po' così, appunto. Qua è diverso, la gente è tranquilla. I nobbi invece sono tutti delinquenti, mamma mia. Basta che non siano degli signori, ma già era tutto di petto. Potrebbe anche. Qua vicino a casa, no? Ma se sali dove c'è la meridiana, su, Gabinetto. Però io sono amico di tutti, ciao ciao, e ti raggiungo. Sì, già lo so. Cosa no, me la devo comprare. Ho visto un amico nostro l'altro giorno. Ha toccato a Marco, a me non mi ha salutato. Sei un aino. Ma chi? E a me lo stesso non ho avuto più rapporti, mi ha cancellato da tutti i posti. Se io lo telefono, non mi fa telefonare, capito? Ma è stato sempre strano, capito? Non rispondeva al telefono quando lo chiamavi. E lui ce l'ha preso perché io gli ho detto... qualche volta risponde al telefono e lui si è messo la voce dicendo cosa, ho detto aspetta un attimo, ci stava entrando la macchina, sono uscito fuori, non ve la guidavi, non mi ha più capito. È un asino, e da me lo stesso se l'ha presa, l'avevo chiamato se mi poteva accompagnare, mi sembra una cosa del genere, e mi aveva detto che era impegnato, vabbè già mi arrangio diversamente, gli ho detto io. Cazzo, dalla voce si era pigliato, non lo ha più favillato. Non è che gli ho fatto niente io. Ma a me mi ha detto solo, chiama Natalino, non chiamare a me, chiama Natalino. Io boh, e cosa ha detto già mettere Natalino? Io Natalino lo chiamo, quando lo devo chiamare, se devo chiamare a te, chiamo a te. Mi pare a me, boh, è tutto strano, E con tutto che gli ha fatto fare, sono riuscito a fargli fare pace con Angelo. Non ci credi tu? Perché con Angelo non si parlava. Già lo so. E con tutto che mi ha fatto qui subito, ma cancellando, cioè mi ha messo una valigia nera, deve essere. E io anche. Pensa che non mi abitava chi ha fabbricato con la Bollini. Però lui a me mi ha messo, con tutto che l'ho fatto fare pace con Angelo, mi ha messo nella lista nera. E vabbè, che dopo sta frequentando con una persona di cui ha sempre parlato male, ma lasciamo perdere. Cosa vuoi che ti dica? Già faccia come crede. Che le stanno dando la pensione? Beh, cosa ne so, chi l'ha più sentito? No, né più visto e né sentito. Io a vederlo già l'ho visto, gli ho trovato anche le chiavi della macchina, sono andato alla casa e ho trovato un paio di chiavi, e vera è. Ah, sono le mie, grazie, le ha prese davanti. Se va bene, prego. Io ya. Se no non avevo avuto più chiavi della macchina, già sarebbe successo un casino, avrebbe dovuto sfasciare la serratura e tutto quanto. L'ha messa in moto, tutto quanto, perché ne ha un paio soldi. Infigurati tu. Ma cosa vuoi che ti dica? Purtroppo la gente è strana. Ma mica. Vabbè, pazienza. A me dispiace perché avevo sempre insieme. Per forza anche a me dispiace, però purtroppo si comporta così la gente. Ma tutti sono utili e non indispensabili, Natali. Vuol dire che non è l'amico, perché uno che prova amici sta cercando di risolvere i problemi e parlare, invece lui non parla. Infatti, non lo so come è fatto questo qui. Io l'ho contattato su internet, non mi ha risposto. Lui a me mi ha messo sulla lista nera da tutte le parti, non lo posso contattare assolutamente. Ma io questo coso non l'ho più cercato, c'è il biglietto, tanto io vivo lo stesso lì, ne ho altre cose nella vita più importanti. La stessa cosa ti dico. E devo dire grazie che adesso c'è, perché se no non sarebbe saputo come fare. Vabbè, ci sono i figli anche, ma Manuela voleva venire da Bologna, addirittura ha detto di non venire. Infatti, ma vabbè. A tutti i musini, sia a Misani già, cosa vuoi ti dica? Non sei su Ubuntu. E lo fatto che ti giacchi tu per maloso, eh? Ah, pure per maloso io. Boh. Ed è peggio di te, mua. Beh, vabbè. Io guarda, lo accoglierò a braccia aperte, non mi interessa quello che ha fatto, se si avvicina non c'è problema, io lo so di quelli che servono ancora per nessuno. Nemmeno io. Una volta aveva fatto lo la stessa cosa, poi mi ha visto in strada, si è fermato con la macchina e è venuto a abbracciare, cosa hai dovuto? E infatti. Il bacio di Giuda. Diva sì, chi si era mentito di chi se l'ha fatto. Ma adesso no, mi è passato, io, lui usciva dall'ascensore, io entrando, a fianco, ha toccato a Marco, gli ha dato la pacca sulle spalle, a me non mi ha seduto. E vabbè. Già campiamo lo stesso, finché ci lasciano. Ma io dico una cosa, la vita è una, bisogna godersela, bisogna essere tutti in pace. Cosa stai a prenderla per ogni cosa, per ogni minima cosa te la prendi? Boh. E mai due fatto così? O è scoppiato da tutte le cose che ha avuto, da tutti i problemi che c'ha, capito? E alla minima cosa scatta. Vabbè, certo, e ne ha di cose sulle spalle, lui è quello, fa tutto in casa, va a fare la spesa, ritira i bambini, fa questo, fa sempre in giro. E infatti la moglie non si muove, che fa tusia a tutti i cosi, ma la Edu è da sempre busata, come c'è una sempre bella seduta nel divano, Edu correva, non abbassa là. E infatti anche io ci vado a fare la spesa, però non così, cavolo. Lui lo telefonava quando era con me, io voglio che ti vieni a casa, dai che devi fare la spesa, allora lui dice, lo accompagnami già che vuole che faccia la spesa. Ah, Edu manda la mia vita. Io ci devo fare più da supermercato, vado con mia moglie e la facciamo, ma noi è un gnadino. Ma loro sono in tanti, capito? Sai come si vanno a vedere roba. E vabbè, io e mia moglie siamo in due solo. Già è vero, Luis. Loro sono in sì. Sono in silo. Attenzione, se ascoltate questa piccola stazioncina, cambio. Avanti la piccola stazioncina, ascoltiamo forte e chiasso. E meno male, e meno male. Ciao Gianni, ciao Natale. In fase di partenza, vai. Ciao a te, dove stai andando di bene? Auristano. Auristano, così lontano. Come, va? Vado lì adesso, poi mi fermo a Torre Grande, vediamo un pochino poi alla partita in un campo che c'è lì vicino, quindi ne approfitto e mi faccio una nottata lì. Ah, vai col camper? E allora? Dopo faccio niente, no? No. Vabbè, dai. Prendete la piano, ti al buio è un po'... Vai piano, tranquillo. Anzi, ti dirò che al buio si guida meglio già. C'è meno traffico e tutto quanto, eh. Però vero, si vede meglio. Vabbè. In fase di preparazione, ti chiamo dopo al limite, se ci sei. Auristano non ci arriverò sicuro. E vabbè, se no dove arrivi. Cavagava. A dopo, vai, ciao, ciao. Ciao Tino, ciao. Ciao Tino, buon tutto. Sì. Passatela bene. Buon viaggio, buon viaggio. Grazie, grazie, a dopo, ciao. Ciao, ciao. Avanti, Tattalì. Sì, cappa. Diceva, Tino, Guru Gamper. Io mi ricordo quando andavo con Franco, stavamo anche la notte, due giorni, stavamo tre dì, senza rientrare. Si potevate la mangiare così, cucinavate nel campo. E allora, ogni tanto si bazzia il caffè, e che stasera più bello di lui. Allora, quello di Franco è un camper già adattato e non è un camper nuovo, però è bello, è grande. Sui casi bene il camper, bisogna diretti, ma è tutto. Lo so, ma non so se mi adatterei, nella roulotte non ci riesco, ci ho provato e non riesco a dormire. Nella roulotte ci ho dormito, ci ho cercato di dormire e non ce l'ho fatta, non riuscivo a dormire, ero in ansia, Ma io dormivo tranquillo, e anche Franco. Andavamo in tre, io, Edu e cosa, Rugarabinieri. cazzo, ce ne andavamo a pescare di brutto. Ma dove andavate? Lontano? Dove capitava, Fiume Santo, dove capitava? Quindi la notte non ve la facevate, dormivate di notte? E allora? Ti cucinavamo la roba, mangiavami, facevamo le canne lanciate. Ah ecco, che canne a muli. E allora? Cioè è bello, il campo è bello, fatto il venerdì per dire ti fai venerdì, sabato e domenica e dopo tutto. Fanno quasi tutti così. È troppo bello il camper. Ma è un costo in più natalino. Elena lo voleva prendere, lo voleva comprare, ma ci ho pensato. La vita sta diventando troppo cara, è un casino. Bisogna stare con i piedi di piombo. Adesso sì. Purtroppo adesso siamo anche in un brutto momento. Elena non lo voleva comprare. Ce lo compriamo di quelli che non costano molto, sulle 5-6 mila euro, lo prendiamo di quelli già un po' adattati. Ce n'era uno che non stava venendo da poco, con 20 mila chilometri, però era adattato, diciamo, avrà avuto 12 anni, però lo stava vendendo perché doveva passare un altro più grande ed era bello, ci aveva macchina Ducato, era un bel camper, c'aveva cioè la massardata e tutto qua, che stava vedendo che pare 5.000 euro. Solo che ha bisogno di manutenzione, di tutto, è come una macchina, capito? Anzi, quello è peggio di una macchina, perché se ti giriamo in carrera quando sei lontano. Quello sì, bisogna che il motore sia a posto. Franco lì aveva fatto tutti gli impianti nuovi, funzionava tutto. Allora, c'è questo qua vicino a casa che c'ha un camper Ducato, di quelli tipo vecchio Ducati. Ma tu devi vedere, questo camper è sempre fiammante, sempre nuovo. Gli ha messo le strisce quelle in plastica, tutte attorno, gli ha verniciato i paraurti, gli ha messo le pattane di quelle belle. Lo tiene un bel bene, sta sempre addosso a questo campo e tu lo vedi ogni venerdì, lui c'è sopra il camper pulendo, facendo, ma ci tiene un casino. Ed è un tipo vecchio di camper, però è tenuto bene, è lucido, capito? E se no non era bello quello di povero Giuseppe Velatre, cazzo, con il Ramaduro. Io non l'ho conosciuto il campo di Giuseppe, però ce ne sono di occasioni, se ne cerchi, specialmente in continente, perché qua non ce n'è, ma in continente ci sono molte occasioni. E in continente trovi di tutto, macchine, di tutto, già. Questo ti ripeto, 20.000 chilometri, dice che lo usavano poco, sono d'estate questi qui, capito? Una coppia di anziani, lo usava d'estate, boh. E infatti, al tempo buono umiliavano il camper e giravano. Già è bello, sì, è bello. Bisogna avere la passione, bisogna avere amici che hanno il camper e andare tutti insieme, allora sì che è bello. Io avevo Antonio, quell'amico mio, quello che lavora alle poste. Quello lì ce l'aveva il camper, poi ce l'ha dovuto vendere per comprarsi la casa. Ha detto che sta ancora piangendo, dice, quello che noi facevamo sempre in giro, avevamo conosciuto tanti camperisti, mangiavamo tutti insieme, divertimento, risate, si stava così bene, facevamo certe tavolate allucinanti. Era sempre un'allegria quando eravamo qui, andavamo tutti d'accordo, non c'erano gelosie, non c'era nulla, sempre tutti, anche continentali ne avevano conosciuto. Se l'ho dovuto vedere, era di quelli, no, di quelli, era, c'aveva 2.38 addirittura lui. Figurati. Quello di Franco dentro. Ascolta, chiedo solo quelli di cena adesso. E aveva fatto tutti gli impianti nuovi, funzionava il rubrico, la cucina, tutto. Guarda, era di lusso veramente. Antonio c'aveva il 2.38 con l'impianto a gas, c'aveva l'impianto a gas sopra la capota, il boccolone, e c'aveva all'impianto a gas. Vedete che un giorno me la stavo andando verso Santa Teresa e gli sono mancati i freni. La moglie dice che si è cagata sotto. Lui dice, non ti preoccupare, non frenava più. Mi dice, va tutto l'ubidare come ti avevi detto tu. Dice, piano piano, ho messo le marce basse e ce l'ho fatta piano piano senza ammazzare. E infatti, con quei mezzi bisogna camminare piano. E magari te la puoi salvare se ti mancano i freni e cose. Vabbè. E comunque era da lì. È bello averli, però quando sei magari qualche comitiva che vai tutti insieme, capito? Ehi, lo so, più divertimento c'è. Vabbè, come era Antonio, caspita. Antonio andava in comitiva, era tutto in greffa, capito? E giravano un bene, giravano un casino. A te mi devo prendere le pastiglie già, ma... Sì, è intanto cambio l'apparato, dai. Mi metto il Luis adesso perché così almeno non so tirare filo e fare. Postazione numero uno. Gabagaba. Luis. Ruiaia. Ma che vuoi che te dia? Guarda, ne facciamo un pezzino. Ah, qua ce ne sono due, gira gira, 4 più 2, sì. Fare sì così. E ha tolto la roba per domani per fare il pranzo domani. Pensa anche a me allora. Ehi, faremo così. Sì, così, concedi, quello che fa le imparate milanese. E allora, vengo di così. Cava cava. E beh, Tino, dove sei? No, non sono uscito di casa ancora. Va bene, dai. Sei attaccato? Sempre, dai, questo qua è così. Adesso devo andare al rifornitore, rifornisco e poi parto. Cava cava. Ma quello non è a gas, vero? Non è anche a gas? No, no. Cos'è, diesel? Diesel 2008. Cava cava. Ho capito. Tipo come ce l'avevo io a lavoro, 2008, il motore dell'Argenta, cioè, cos'è, Ducato? Sì, un Ducato, un GTD. E al motore dell'Argenta quello lì. Sì, va benissimo quello lì. Poi c'è una stanzata con la macchina lì che è allucinante. Si girava su se stesso, proprio qua. Non dovevo fare manovre di nulla. Già ho notato, in confronto di lì è diverso. Per dire, se avevamo il Ford, se ne avevamo altri, devo fare 50.000 manovre, ma fai sì. Scusate che devo fare manovra per rifornire, a dopo. Ehi, la Natalia, riprendi? Hola. Natalino! Gianni. Ehi. Avevano suonato, capito? E stava rispondendo, concetto. Ah, ho capito, dai. Oia. Natalia si farà due. No, se no, non ho fatto tempo a dirtelo. Cazzo, mi hai facciato il campanello, si divide. Fra poco sta mettendo il gasolio, Tino, fra poco parte, dai. Vedi, a me mi sembra bello di Lugamper, anche quello di Franco è diesel, non è a benzina. Dico, che domani... No, quello di Antonio, la benzina è col bombolone del gas sopra, ma era di chi si pesci, 238, ce l'hai presenti, 238. Sì, l'ho pure guidato all'ambulanza, quello lì. Anche io l'ho guidato alla Croce Blu. C'era la Croce Blu pure. Io ho guidato quello, il cappuccino. Questo è il cappuccino che tu camminava, quello della pesce. Quello era a 1009, mi pare. Camminava che cosa male. Che cosa? Il cappuccino, quello della pesce. Ah, cazzo, visto. Ma quella che camminava di più era il Volkswagen, l'ultimo che aveva preso che poi l'hanno sequestrato. Già lo so. Quello era a iniezione. Ma io non l'ho detto, Adriano, non i biglià, che dopo non ci vengono tutti qua, dicono sì, facciamo servizi, diciamo, paghiamo, questo e quell'altro. Poi si sono tirati tutti a Darito, capito? Io gli ho detto, non le prende, guarda, io questo periodo mi sto sposando, non posso mettere nessun soldo e non posso fare manco servizi perché ho impegni. Non le prendere, ci sono le ambulanze, te la stanno mettendo a te, e non hanno sequestrato la casa. E per frutta di non paghi, grazie. Ma Ma avevi detto che era morto, cazzo, poveraccio. È morto, io l'ho saputo da Bassarino dopo che è morto. Ho detto, ma di Adriano non l'ho saputo, no, non ho saputo nulla, che cosa? È morto, morto. Sì, gli avevano tagliato anche le gambe, dice che appena ha detto voglio morire, lei gli ha detto, a me mi va bene anche così, ma a me non mi sta bene stare così, gli ha detto. Poveraccio. Si è preso un brutto diabete, capito? Ma forte però. Oia. Cura gallaghi, si mari. Il diabete non si scherza, è una malattia di cavolo, appunto. Non te ne accorgi, è assassina come malattia. Subito lo è. Non ti accorgi di quello che hai, tu di colpo da gamba. Infatti. Già lo sai anche da tua madre, tu, com'era? Oia, e mamma non ha testo stupurosi, non ha bocca di cose, ui. La vista, stupurosi, insomma, di tutto di più, al cuore. E fate molto di fatto, mamma. Mamma era diventata giga, buru. Ha avuto il distacco della retina. Ricordo che c'era Marco Piccolino che aveva paura, mi diceva papà ha paura, c'è l'occhio bianco. Purtroppo so così Marazucci, mamma però a fare i servizi, non stagia a dieta, compreso la. E babbo Dio recuperava rimanere con la mortadella. Non è sta cosa, che rubano che te la potevi alzare in picco. E io dico che se l'abbiamo comparato, che se noi se l'avevamo comparato noi non l'abbiamo comparato. Naturalmente, cazzo. Senza riga l'abbiamo fatto a mangiare. Sì, tra due fuochi era. Cioè, a ripetizione, brutto. Ci sarà stato qualche conservante, poi vedo un profumo di suo negozio, te la metti, quel profumo di mortadella, poi di quelle macchine, di quelle antiche rose a manovella, cazzo, quelle affettatrici vecchie. Cazzo, era tutto quanto, tipo tutto un negozio antico, là. Un bel profumo di mortadella, va via. Beh, poi lo sai cosa so tutto, da uno della Vismara, che mi ha detto che è più fumata la mortadella e più c'ha conservanti. E infatti, è proprio così che deve essere. Catta, la buccia, gli avevamo via da buona. Dopo se l'avevamo fatto un bel paio, 3 o 4 mi pare. Cazzo! Avevamo affittato, rimani via con la mortadella. Cazzo da voi, però, chi tu gane, bovara.